Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati al nostro appuntamento dedicato ai libri di economia. Oggi parliamo di Eclisse della socialdemocrazia di Giuseppe Berta. Buongiorno professor Berta. Buongiorno. Giuseppe Berta insegna storia contemporanea all'Università Bocconi di Milano, ha scritto altri libri tra cui L'Italia delle fabbriche, dal triangolo industriale alla megalopoli padana, La questione settentrionale, e questo libro è dedicato alla socialdemocrazia in questa particolare fase storica, potremmo dire, in cui si parla ormai da quasi un anno di grande crisi globale, crisi economica, che ha dato forse un colpo definitivo alla socialdemocrazia. È questa la tesi, professor Berta? Sì, la tesi è che la socialdemocrazia è giunta all'appuntamento di fine secolo impreparata. In che senso impreparata? Nel passato ha avuto un grande programma che si riassume in due termini: il welfare state e l'economia mista. Alla fine del Novecento, nel momento di apogeo della globalizzazione, la socialdemocrazia ha cambiato politica e ha pensato che fosse possibile scommettere fino in fondo sulla globalizzazione e che automaticamente i benefici derivanti dal processo di trasformazione e di potenziamento dell'economia globale si sarebbero per così dire generalizzati con effetti benefici sulle classi sociali. Così invece non è stato, perché le diseguaglianze sono diminuite. Accanto a questo cambiamento ce n'è un altro: la socialdemocrazia ha inevitabilmente perso le sue radici sociali, che stavano nella società di massa, nell'epoca della grande industria fordista, nell'epoca dei grandi organismi di massa come i sindacati e così via, e è diventata una forza che comunica soprattutto per via mediatica. Ciò ha depotenziato le sue radici e l'ha messa in una condizione di debolezza e di minorità da cui non è facile uscire, come dimostrano le recentissime elezioni europee. Ecco, in questa prospettiva la socialdemocrazia ha posto un po' da se stessa le basi per il suo declino, affidandosi in pratica al mercato, fidando che il mercato potesse autocorreggersi e fidando sul fatto che la crescita economica avrebbe potuto dare le risorse necessarie per la redistribuzione e quindi per raggiungere un'equità. Quindi c'è stata un'eccessiva fiducia in un mercato considerato però un mercato privo di regole a questo punto. Sì, più ancora che fiducia nel mercato che la socialdemocrazia ha avuto anche in passato, nel senso che la socialdemocrazia non è mai stata una forza antimercato, ma bensì di integrazione, di correzione del mercato. In questo caso c'è stata la fiducia nel mercato globale, nel fatto che la crescita mondiale avesse una tale forza, possedesse dentro di sé tante risorse da poter automaticamente correggere gli squilibri. Insomma, la globalizzazione era una promessa di ricchezza generalizzata. Ecco, ciò ha fatto sì che la socialdemocrazia abdicasse, diciamo così, a un compito di guida della politica, e la politica diventasse qualche cosa che era una semplice componente aggiuntiva rispetto alla dinamica spontanea della crescita dell'economia internazionale. Direi che in un certo senso la socialdemocrazia europea si è arresa alla potenza economica che la globalizzazione è sembrata dispiegare a fine secolo. E quindi, in un certo senso, nel suo libro mi pare che lo si legga, è stato anche male interpretato il messaggio di Keynes, che presupponeva appunto un intervento statale, ma l'intervento statale è stato posto solo al termine come redistribuzione ultima e non è stato invece posto come dare maggiore efficienza da parte dello Stato al mercato, quindi riducendo la burocrazia, riducendo i costi della politica, facendo crescere l'efficienza appunto dello stesso mercato. Io penso che ci sia stato, da questo punto di vista, un autentico fraintendimento di Keynes. Oggi noi, anche nelle vicende dell'attuale crisi, parliamo sempre di Keynes come di un sostenitore in primo luogo dell'intervento statale, no? del deficit spending e così via. E tendiamo, secondo me, mentre consideriamo soprattutto le terapie che Keynes prescrisse per la crisi degli anni 30, tendiamo a dimenticare il messaggio invece autenticamente liberale di Keynes. Keynes indicava una prospettiva di crescita della libertà dell'individuo che poggiasse su alcune grandi garanzie sociali. Ecco, questo è l'aspetto che secondo me è rimasto più in ombra di Keynes. C'è un Keynes, il Keynes liberale, che però era molto attento alle ragioni di giustizia sociale poste innanzi dei socialisti. Ecco, c'era un Keynes che veramente interpretava il cambiamento del mondo moderno come una domanda radicale di garanzie di libertà. Io credo che la socialdemocrazia abbia preso atto, certo, del disfacimento, come dicevo prima, dei grandi organismi collettivi e di massa, ma non abbia interpretato una domanda di libertà autentica che invece nelle nostre società è pienamente matura. Insomma, da un lato occorrono grandi garanzie sociali, come vediamo anche in questa crisi, ma dall'altra bisogna valorizzare la capacità e la libertà di scelta dell'individuo. Questo era l'incontro tra le ragioni del socialismo e le ragioni del liberalismo che postulava Keynes fin dagli anni 20, dalla metà degli anni 20 già indicava questa prospettiva di un possibile incontro un giorno tra liberali e socialisti. Ecco, a me sembra che la forza culturale, ideologica di questo messaggio si sia persa, mentre l'accento è caduto soprattutto sulle terapie keynesiane, sulle ricette di politica economica, ma le ricette di politica economica inevitabilmente sono datate, perché risentono dei tempi che le hanno richieste, le hanno chiamate in vita, mentre invece la prospettiva ideale di una libertà dell'individuo sorretta da un ampio ventaglio di garanzie sociali, secondo me, resta di piena attualità per le nostre società e per il nostro tempo. Questo perché molto spesso, quando si guarda l'intervento statale, si pensa alle regole, si pensa a regole che limitino, che bloccano, che vincolino l'attività, che diano appunto delle garanzie, ma che sono comunque degli elementi che danno delle direttive, che quindi lasciano solo una libertà limitata. Invece ci sono regole che potrebbero, anzi che dovrebbero espandere la libertà e quindi anche la responsabilità delle persone. L'individualità maggiore di quello che fin qui c'è stato. Le garanzie sociali sono fondamentali, ma sono fondamentali fin tanto che danno una possibilità all'individuo, alla persona, di perseguire più liberamente un proprio progetto di crescita e di valorizzazione individuale. Quindi in prospettiva, guardando un po' in avanti, dalla crisi della socialdemocrazia, dalla crisi indubbiamente di un certo tipo di mercato lasciato senza regole, di un mercato che ha affidato molto alla finanza, alla possibilità di crescita, e poi una possibilità che si è dimostrata un'illusione, perché la finanza non può creare dal nulla la ricchezza. Ecco, come si può uscire in una prospettiva di giusto rapporto tra Stato e mercato dopo questa crisi? Secondo me la socialdemocrazia deve, come già sta facendo, rinunciare al suo armamentario pesante di un tempo, vale a dire il radicamento di massa, l'appoggiarsi sui sindacati in primo luogo, l'appoggiarsi sulle grandi visioni collettive della società. Questo sta venendo meno. Ciò che non sta venendo meno invece è avere un radicamento politico che non stia soltanto nella dimensione mediatica. Che cosa intendo? Intendo una valorizzazione dei corpi intermedi. Anche qui si viene incontro Keynes. Oggi pensiamo alla presenza di tantissime organizzazioni del volontariato, di tantissime organizzazioni specifiche, culturali, di genere, ambientaliste e così via. Tutte queste issues devono essere un elemento di tramite verso la politica. Allora, la politica non ha più le sezioni organizzate di un tempo, non ha più la struttura pesante organizzativa del partito di massa, ma non può fare a meno di dialogare con tutte le componenti della società che sono estremamente articolate che sono vivaci e che vanno ricomposte in una visione unitaria della politica. A me sembra che il successo recente della campagna elettorale di Obama in America si deve proprio al fatto di aver rivitalizzato questa tradizione democratica, di aver posto di nuovo l'accento sulle radici di una politica che guarda molto la società e che tiene conto delle istanze sociali, che sono istanze differenziate e che anche qui sono istanze e domande in tante misure di maggiore libertà e di maggiore garanzia individuale. Ecco, in cui lo Stato si pone in fondo come garante della libertà di ciascuno, e il fatto che la libertà di ciascuno non soverchi la libertà degli altri, e che in questa prospettiva si può parlare di un liberalismo sociale, come lei fa nel libro, in cui la libertà appunto poi si compone in una società che sa darsi degli obiettivi anche di equità e di redistribuzione della ricchezza. Non c'è dubbio, da questo punto di vista vista c'è una lezione di inizio Novecento, quando poi il laburismo è nato. Il laburismo è nato per un grande movimento di liberalismo sociale, la tradizione del liberalismo sociale vittoriano, di cui lo stesso Keynes è stato in larga parte erede. Ecco, tutto questo perciò implica un recupero di radici che a lungo sono state considerate residuali o come dire, superate dagli sviluppi stessi del movimento socialista. Oggi vediamo invece che il movimento socialista si fondava molto spesso sull'ipostasi, su un blocco di alcuni elementi che sono più temporanei di quelli che potevano apparire ai fondatori dei movimenti socialisti, e sono legati appunto ad aspetti della società di massa, della società industriale fondata sulla grande organizzazione della produzione e così via, che oggi sono certamente in fase di superamento. Ecco perché secondo me merita ritornare a quel punto di confluenza indicato lucidamente da Keynes tra liberalismo e socialismo già alla metà degli anni 20, già prima ancora della grande crisi del 1929. Per ritornare a recuperare questi elementi di storia è indubbiamente utile il libro di cui abbiamo parlato, è Crisse della socialdemocrazia, scritto da Giuseppe Berta, che ringraziamo, insegnante e docente di storia contemporanea all'Università Bocconi di Milano. Il libro è edito dal Mulino, costa 10 euro e da 140 pagine. Grazie a quanti ci hanno seguito. La linea alle notizie sul traffico. Economia in pagina. Bentornati al nostro appuntamento dedicato ai libri di economia. Abbiamo parlato nella prima parte con il professor Giuseppe Berta della Bocconi del libro Eclisse della socialdemocrazia, un libro dedicato alla storia dell'ultimo secolo nella particolare prospettiva della politica, delle sorti della socialdemocrazia, soprattutto come è arrivata la socialdemocrazia a vivere e quindi a sciogliersi anche dei propri ideali di fronte alla crisi finanziaria globale che stiamo vivendo in quest'ultimo periodo storico. Ora entriamo nei particolari della crisi, di questa crisi globale che ormai da più di un anno sta interessando tutto il mondo, partita come crisi finanziaria ed ora è arrivata pesantemente a colpire anche l'economia reale. E lo facciamo con Massimo Di Nola. Buongiorno Di Nola. Buongiorno a te e a chi ci ascolta. Massimo Di Nola è giornalista, attualmente a Radio Corri, Il Sole 24 Ore, e ha scritto il libro Ciao Crisi, la sorprendente trama della crisi finanziaria e le scelte che ora ci attendono. Ecco, un libro che si legge come un libro giallo proprio per alcuni contenuti, per un approccio quasi romanzato a contenuti che sono tuttavia completamente reali. Perché possiamo paragonare questa storia a un libro giallo, Di Nola? Io credo che questo ultimo anno e mezzo sia stato contraddistinto da una serie continua di sorprese. Una vicenda che nasce inizialmente, sembra, in un mondo abbastanza confinato, che è quello di alcune banche americane, di alcune regioni, come stati come la California, i crediti agli immigrati messicani, eccetera, che poi diventa invece qualcosa che comincia a colpire anche Wall Street, che poi varca l'oceano, arriva in Europa con i primi fallimenti di una banca inglese. Poi diventa una crisi che colpisce tutti i mercati, poi passa dal mondo finanziario al mondo reale e prende continuamente di sorpresa tutti quanti, prende di sorpresa gli investitori, prende di sorpresa gli analisti economici. Tu pensa che i primi dati sul fatto che la crisi abbia avuto un effetto anche sull'economia reale arrivano alla fine del 2008, quando in realtà c'erano già stati 3 mesi di crollo dell'occupazione, degli investimenti, eccetera. Ecco, quello che sorprende appunto nella cronaca di questa crisi è il fatto che molti elementi erano noti da tempo, cioè il fatto che ci fosse uno squilibrio dei conti dell'amministrazione americana, il fatto che fossero i cinesi a sostenere con i loro risparmi i consumi degli americani, il fatto che la bolla immobiliare americana c'era ormai dall'inizio degli anni 2000, erano tutti fatti noti, però tutti pensavano che potessero essere superati, che non avessero incidenza. Perché nessuno ha lanciato in tempo l'allarme, o perché qualcuno ha lanciato l'allarme ma nessuno in fondo ci ha creduto veramente che si potesse arrivare a una crisi di dimensioni così forti? Guarda, io ho 60 anni, faccio giornalista da 40 anni. Io del problema del deficit americano e della intollerabilità del medesimo sento parlare, se non da 40, facciamo da 35 anni. da quando è stata dichiarata la inconvertibilità del dollaro. Voglio dire, gli squilibri nella finanza non solo ci sono sempre stati, ma ci devono essere, ci deve essere sempre qualcuno che fa dei crediti, qualcuno che fa dei debiti. La cosa interessante è capire come mai a un certo punto e per quale motivo questi squilibri, che fino a ieri sembravano delle cose più che tollerabili, sono diventati improvvisamente insostenibili. E secondo me questo è l'aspetto interessante, è un problema di rappresentazione economica. Cioè l'economia non è una scienza oggettiva, è una scienza che evidentemente ha a che fare con dei fatti oggettivi, ma in cui contano i comportamenti, e i comportamenti dipendono da delle interpretazioni. Quindi se improvvisamente le banche, che vedevano la banca vicina con una controparte sicura, affidabile, eccetera, la considerano come qualcosa che è sul rischio del fallimento, di assolutamente insicuro e incerto, si scatena tutta una serie di problemi per cui siamo arrivati alla crisi di adesso. Ecco, quindi la razionalità che poteva spiegare prima il fatto che ci fosse una crescita continua è la stessa razionalità che spiega dopo il fatto che la crescita si è interrotta. Questo perché in fondo la rappresentazione che ciascuno ne fa è diversa da un momento all'altro. Prima c'era la fiducia che tutto potesse continuare, nel momento in cui si è rotta la fiducia le carte si sono girate e si è visto in un certo senso che il re era nudo e che la sostenibilità che tutti vantavano poi era un'illusione a lungo termine. Ma credo che tocchi due problemi fondamentali. In effetti, alla base di tutto questo c'è la visione del rischio. Quello che prima era visto come non rischioso è stato visto come rischioso, e questo il libro lo racconta, spero in termini semplici anche per i lettori non esperti, proprio attraverso la caduta di tutta una serie di procedure con le quali le banche e il mondo della finanza pensava di poterlo misurare, questo rischio. Si è scoperto che misurava i rischi del passato e non quelli del futuro. Ed è anche, secondo me, la risposta alla domanda che tutti si pongono: quando ne usciamo da questa crisi? Sappiamo che non avremo più il 29 come qualcuno temeva alcuni mesi fa, ma per uscire da questa crisi bisogna ripristinare qualche cosa che, vabbè, io nel libro chiamo il grande ottimismo, che è, se vuoi, una versione un po' giornalistica di tutto quel filone di pensiero teorico che parla della efficienza dei mercati. Cioè si pensava che i mercati comunque erano in grado di sostenere questa crescita continua. Oggi mi sembra che forse il personaggio che più incarna questa possibilità, l'idea può essere solo di rilanciare la domanda con un grande cambiamento. Grande cambiamento che può andare dove? Allora, io sono convinto che ci sono alcuni segnali che sono già positivi. Per esempio, c'è una convinzione diffusa che c'è un cambiamento di modello energetico necessario. C'è sicuramente l'idea che c'è un cambiamento dei modelli dei trasporti necessari. Secondo me la grande scommessa è anche quella di pensare che tra i mercati su cui si potrà investire, quindi di nuovo rischiare, non c'è solo la Cina, di cui, come tu sai, mi sono occupato per tanti anni, ma il mondo è vasto, c'è l'Africa, c'è l'America Latina, e bisogna trovare un modo di rilanciare un modello di crescita e di fiducia verso questo mondo che effettivamente ha dentro di sé tutti i potenziali della crescita. Sì, un mondo che ha grandi potenzialità, che forse deve riscoprire gli strumenti alla base della crescita. Il mercato è uno di questi strumenti, ma resta uno strumento. Il problema forse anche nel mercato è quello di ritornare a concepire il rischio come tale, cioè un rischio che qualche volta può anche manifestarsi e diventare un fallimento. Mentre negli anni appunto della crescita, gli anni dell'oro, il rischio quasi si esorcizzava e diventava quasi inesistente perché c'era una crescita continua. Ora, il fattore rischio è un fenomeno importante, il fattore responsabilità è un fattore altrettanto importante nello sfruttare appunto tutte le opportunità, far funzionare di nuovo i mercati, mentre attualmente c'è forse un eccesso di fiducia nello Stato, nelle virtù dello Stato. Come uscire da questo dilemma? Più Stato o più mercati funzionanti garantiti dallo Stato? Io penso che sicuramente più Stato, inteso come lo Stato che si assume le funzioni dei privati, che fa il banchiere, in poche parole, le banche centrali che stampano moneta, non è questa la soluzione. Più Stato nel senso di, per esempio, parlo di una cosa poco amata e poco conosciuta, di come ad esempio l'Unione Europea sta cercando di mettere in piedi dei programmi di sviluppo e di finanziamento per tutta una serie di paesi, l'area mediterranea, i paesi dell'Europa dell'Est che ancora non fanno parte della UE, eccetera, che è un approccio di messa a disposizione di fondi, ma unita dei programmi, unita a delle richieste di trasformazione sociale e di quella che viene chiamata governance, eccetera. Secondo me questa è una strada che invece ha senso. L'altra strada è quella che sta in qualche modo prendendo piede, è che c'è un meccanismo di mercato automatico che per fortuna aiuterà molti paesi del terzo mondo dell'aumento del prezzo delle materie prime. Noi bestemmiamo contro il prezzo del petrolio, in realtà più il petrolio sale più c'è tutta una serie di paesi che riciclano ricchezza, investimenti e sviluppo. Ecco, stando sul primo punto, indubbiamente l'Europa ha un ruolo, può avere un ruolo molto importante in una fase di sviluppo, lo ricordi nel libro, ma ricordi anche che l'Europa è forse una grande potenza solo potenziale, poi i singoli paesi si muovono per vie proprie, si candidano ad essere dei protagonisti isolati, quindi dietro le grandi potenze come la Cina e gli Stati Uniti nei rapporti con le nazioni emergenti come i famosi BRIC, India, Brasile, Russia e Cina. Ecco, l'Europa potrebbe svolgere un ruolo, ma se diventasse veramente una potenza in grado di essere una potenza economica. È il solito problema di chi si occupa di economia, che vede delle possibili strade di sviluppo eccetera, però esiste una politica che frena e sicuramente in questo momento l'Europa è qualcosa di molto impopolare, che non viene giocato in modo positivo dai governi e dai partiti che pensano di acquisire dei voti parlandone male e soprattutto giocando sul nazionalismo invece che su delle politiche che fanno massa critica giocate assieme, e questo quindi è uno dei problemi. L'altro problema è anche in America. Obama ha un grande progetto di trasformazione che potrebbe rilanciare l'America, ma si trova a dover giocare con un senato, con delle lobby, con dei gruppi di potere, per cui potrebbe fare, io nel libro cito l'esempio melanconico di Carter, la fine di Carter, che anche lui è stato un grande trasformatore in potenza e poi è finito in un grande pantano. Ecco, questo libro si conclude affermando ancora una volta la partita si gioca tra fiducia e rischio, per entrambi manca in questo momento un ancoraggio sufficientemente credibile e riconosciuto a livello mondiale, occorre costruirlo perché la posta in gioco è rilevante, l'eccesso di fiducia può anche alimentare le bolle speculative, ma la sopravvalutazione del rischio ha un effetto peggiore, accentua le divisioni e alimenta i conflitti e il mondo non ne ha bisogno. Un equilibrio quindi tra fiducia e rischio, per concludere, Massimo Di Nola. Direi proprio di sì, direi che io però in questo momento direi molto più sulla fiducia, nel senso che c'è un gioco sulla paura, sul vedere il paese vicino come concorrente, come nemico, che va assolutamente superato se vogliamo uscire. Ecco, quindi conoscere questa crisi, leggere questa crisi come un romanzo, ma capire che in fondo, come tutte le tante altre crisi, anche questa può essere superata. Questa è in fondo la filosofia di Massimo Di Nola nel libro Ciao Crisi, la sorprendente trama della crisi finanziaria e le scelte che ora ci attendono. Un libro edito dal Sole 24 Ore a un prezzo di 19 euro. Si legge come un romanzo, ho detto, a 180 pagine, anche un glossario finale e qualche consiglio per approfondire con la bibliografia, con altre letture, quelli che possono essere i punti più interessanti. Grazie a Massimo Di Nola e grazie a quanti ci hanno seguito.